slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the baby blues. The very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah. Yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah. Yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah. Yeah. Yeah. She's my clickety click, I'll stick you. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, see you now, I said, I got a stick chick, see, it's a neat chick, but see what I make me tick, mama, yeah, yeah, yeah, clickety click, a stick chick, yeah, yeah, don't yeah, you know she's a stick, yeah, yeah, mama, mama, yeah, yeah, I stick yeah, a chick, yeah, yeah, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chick, yeah, yeah, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Ben ritrovati e ben ritrovate a Slick Chick. Se il microfono mi assiste, come sempre i microfoni sono un problemino in questa Radio Wombat, ma forse non solo, un po' ovunque. Ecco, insomma, eccoci qua, giornata ventosissima, non so da voi da dove ci state ascoltando, ma qui dalla Wombat Caverna si sente ululare il vento, è una cosa un po' raccapricciante e paurosissima. Ma noi Wombat siamo coraggiosi, quindi non ci interessa niente, andiamo avanti. E la prima puntata di Slick Chick post estate, perché sì, in realtà con chi di voi è rimasto affezionato al Wombat anche d'estate, ci siamo sentiti comunque anche di luglio ed agosto, almeno un po', con una versione estiva di Slick Chick, un po' di letture musicate, di belle cose fantascientifiche e non. Ma adesso è giunto il momento di ritornare alla versione solita, quella normale, quella a cui siete abituati e spero anche un po' affezionati ormai, che è la versione usuale di Slick Chick, ovvero quella che parte da un argomento, da una parola, da un qualsiasi cosa, un colore, capo d'abbigliamento, un numero, una data, quel che è. Parte da questo per andare a scoprire, perlomeno, o riscoprire un po' di musica bella, varia musica, tanta musica, dire il vero, più o meno bella, insomma, sta a voi deciderlo, a me piace, tant'è che l'ho messa io e quindi chiaramente ci mancherebbe anche altro. Quindi vi ricordo come prima cosa i social Wombat, wombat.noblogs.org e la casella di posta postawombat@insiberia.net a cui scrivere. E vi ricordo anche che oltre a che in streaming, che probabilmente è il modo con cui ci state ascoltando, anche se non è detto, oltre a questo modo, che è quello classico, in realtà abbiamo anche un altro modo tornato agibile da dopo quest'estate, ovvero la possibilità di ascoltarci sulle onde mediocri, ovvero le AM, quelle onde medie attualmente onestamente vuote, dove però c'è il Wombat e quindi potete ascoltare noi se siete abbastanza fortunati da essere raggiunti dal nostro segnale. La frequenza è 1359 AM, appunto la frequenza che condividiamo con altri progetti della ciurma pirata che provano appunto a fecondare le onde medie. Non siamo solo noi, c'è anche a Genova Radiogramma, che salutiamo, ha preso a trasmettere da qualche mese. E si vocifera nell'etere che stia in arrivo anche qualcosa a Bologna, insomma, si muovono cose sull'etere, restate in ascolto con le vostre orecchiette da vombati. Ma dobbiamo iniziare, vi ho detto le cose ovvie, le cose di servizio, le comunicazioni di servizio, adesso invece dobbiamo iniziare con la nostra scaletta, anche perché non ho poi tutto questo tempo per poter discorrere con voi del più e del meno. E oggi iniziamo con gli alberi, perché in effetti abbiamo parlato forse di cose simili, di argomenti naturali, ma gli alberi non l'avevamo approfonditi. Tra l'altro sarebbe un argomento che si potrebbe guardare da vari lati, l'assembramento di alberi ad esempio dal luogo a foreste, giungle, boschi, ma questo ce lo riserveremo per un'altra puntata che sarà dedicata appunto a questo, ai boschi, alle foreste e quant'altro. Invece questa volta ci concentriamo sugli alberi, gli alberi anche singoli, non necessariamente in gruppo. E sono tanti i musicisti che ne hanno parlato, si sono fatti ispirare dagli alberi. Gli alberi sono una bella entità di cui ragionare da un punto di vista musicale. E iniziamo con qualcosa di probabilmente che non vi aspettavate, Ivan Graziani. Iniziamo da Ivan Graziani, da lui, perché Ivan Graziani ha scritto Signora bionda dei ciliegi e quindi insomma glielo dovevamo di metterlo in questa scaletta. L'album è Ivan Graziani, omonimo del 1983. E beh, le canzoni di Ivan Graziani sono malinconiche come certi parchi in autunno, non so che ne pensate, a me sembra questo. E quindi mi è sembrato anche ottimo come inizio di stagione, visto che poi appunto imperversa l'autunno, il freddo e la bora, ecco, Ivan Graziani ci sta proprio. È un ragazzo che dall'Abruzzo arriva a Firenze e viene accolto dalla città e da una signora bionda dei ciliegi, molto più vecchia di lui, un po' maestra, un po' nave scuola. E questo è un po' quello di cui ci racconta Ivan Graziani. E che ne sarà stato di quel bicchiere di spuma fredda nella mano e di quella villa bianca dei ciliegi, ormai abbandonata come un ricordo lontano, eh? Che ne sarà stato? Boh. Come va? Sei ancora addormentata? Città da sempre amata, perduta e mai riconquistata. E il ricordo è così lontano di un bicchiere di spuma freddo nella mano. La villa è lì davanti a me in quest'alba d'estate, prigioniera dentro la sua rete. Ma quella rete scavalcherò, e se nessuno mi sente vorrei ancora parlarle, perché ho un segreto da dirle, da dirle. E mi ascolti, bianca dei ciliegi, accendi ancora le tue luci per te, per me. E rimandami le immagini di allora, lo stesso giorno, la stessa ora, per respirare una vita vissuta con te. Ecco ormai la porta che si è aperta, che silenzio intorno, nel grande specchio si riflette il giorno. La signora chissà dov'è, la signora che era purtroppo tanto più grande di me. Davanti a quel divano d'annunziano risento la sua mano. Io spaventato rimanevo lì, occhi sgranati a sentir quei sì, fra il piacere e il terrore, l'odio e l'amore, e termino troppo presto quel gioco crudele d'agosto. E mi ascolti, signora bionda dei ciliegi, accendi ancora quelle luci per me. Per me. Se lo faccio io, adesso come faccio? Sì, signora, quello che ho creduto, di scuola alle cicche, a casa sono un padrero. Per respirare di nuovo la vita, per respirare di nuovo la vita vissuta con te sotto braccio mio. Adesso come faccio? Sì, signora, dopo i compiti di scuola alle cinque accendi ancora con le luci per me. Adesso come faccio? Sì, signora, dopo i compiti di scuola alle cinque e a casa sua non mancherò. Ogni volta che ricomincio una stagione qui in radio, in realtà mi dimentico tutte le volte, cioè scopro cose incredibili che avevo già scoperto mille anni fa, l'uso del mixer, dei microfoni, vabbè, e non mi ricordo mai più niente, mi tocca ricominciare da capo, che dire, la magia della radio, ecco sì, e qualche altra banalità del genere. Allora, dopo Ivan Graziani passiamo a un personaggio altrettanto malinconico, ok, forse anche parecchio di più e anche parecchio più serio, che è Chet Baker. Chet Baker, anche lui ha parlato degli alberi, soprattutto ha parlato con gli alberi. Non so se vi è mai capitato di parlare con gli alberi. Chet Baker lo fa decisamente con ombra e saggezza, che poi è quello che ci si può aspettare da un albero anche, insomma, gli alberi questo fanno, ti restituiscono indietro esattamente questo, ombra e saggezza. Ecco, e Chet Baker, I talk to the trees, quindi parlo con gli alberi, appunto, from Chet Baker Plays the Best of Learning and Love del 1959, un album che registra appunto una serie di brani dove suonati non soltanto da Chet Baker ma anche da un'orchestra di un bello spessore. Insieme a Chet Baker c'è Herbie Mann al flauto, Zoot Sims al sassofono alto e tenore, Pepper Adams al sassofono baritono, Billy Evans, scusate, al piano, Earl May al contrabbasso e Clifford Jarvis al batteria. Insomma, beh, direi che è proprio il caso di ascoltarsela, eh? Che dite? Insomma, questa puntata dedicata agli alberi in effetti potrebbe anche un po' parlare o perlomeno essere dedicata alla foresta di Hambach, ai compagni e le compagne che stanno resistendo in realtà da anni nella foresta di Hambach, a 20 km da circa da Colonia in Germania, e che stanno cercando di difendere la foresta da un allargamento di una miniera di lignite dell'ennesima multinazionale mega corporation che vuole devastare anche quel pezzo di terreno e di bosco e di quel poco che ci hanno lasciato finora. E insomma, sono anni che resistono loro e adesso li stanno sgomberando. Lo sgombero sta andando avanti da diversi giorni. È morto un attivista qualche giorno fa cadendo da 14 metri da una passerella che collegava due delle tante case costruite sugli alberi. Insomma, evidentemente la dobbiamo dedicare proprio anche a loro e alla loro bellissima resistenza e tenace resistenza che gli auguro che sia il più fruttuosa possibile. Quindi Chet Baker insieme a Bill Havens e tantissimi altri, I Talk to the Tree, e proseguendo nella nostra scaletta arriviamo ai Rush, che onestamente non pensavo di arrivare a mettervi in radio, ma l'ho dovuto fare. In effetti il brano The Trees era proprio imprescindibile. L'album è Hemispheres. Che ho detto? Ho detto un coso strano. Hemispheres del 1978. E questo brano racconta la storia di un conflitto, una vera e propria guerra, faida, come la volete chiamare, che avviene tra gli aceri e le querce all'interno di un bosco per avere i posti migliori e più esposti al sole. E cosa succede? Dopo tutta questa faida, insomma, quello che ottengono è che l'uguaglianza che riescono a ottenere li porta che quando arrivano i tagliaboschi, i taglialegna, alla fine vengono tutti trattati alla stessa maniera nel momento in cui vengono segati e tagliati. Beh, insomma, degli ottimisti questi Rush, gente che aveva proprio una fiducia nel futuro e nel bel mondo che verrà. Beh, che si deve fare? D'altronde è pieno di pessimisti. Io no, ma comunque questo brano vale la pena di essere ascoltato. Trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Trouble with the maple. E 7 minuti e 18 di allegra claustrofobia di FX Twin 3, semplicemente così, dall'album Selected Ambient Works volume 2 del 1994. E, sì, però c'era anche un po' qualcosa di boschivo, eh? Non è che proprio era solo claustrofobico e ossessivo, vabbè. Sì, fondamentalmente era ossessivo, d'accordo. E vabbè, è andata così. Mi sono ricordata che non vi ho assolutamente detto niente sul fatto che oggi è martedì. Sì, è martedì perché Slick Chick ha cambiato giorno. Quindi che siate qui consapevolmente, perché siete delle persone consapevoli e coscienti, avete letto sul sito del Wombat che Slick Chick cambia giorno, o sia che in realtà non lo sapevate, non ve ne poteva fregare neanche di meno e siete qui per caso. In ogni caso sappiate che Slick Chick cambia giorno per causa di forze maggiori. Ho dovuto tristemente e mogiamente abbandonare il mercoledì sera che tanto mi piaceva, e però adesso mi ritroverete qui tutti i martedì intorno alle 20, tra le 20 e le 20 e 30, traffico permettendo, insomma, vogliatemi bene e perdonatemi un po' di ritardi, ma insomma intorno alle 8 di sera tutti i martedì Slick Chick la trovate qua. E così come la trovate in replica il venerdì alle 23 e il sabato alle 17. Quindi insomma questi sono i tre orari in cui ascoltare Slick Chick, a meno che voi non siate pigri e non le ascoltiate in podcast come i moderni ragazzacci d'oggi. In realtà noi Wombati siamo vintage, come ormai sapete, quindi vi consigliamo di ascoltarci in diretta perché ci piace tanto, ci fa piacere e ci sentiamo meno soli perché non ci sembra di parlare al niente. Quindi Queste sono le altre informazioni di servizio, oltre alle prime che vi avevo dato, e proseguiamo nella scaletta arrivando ai Pearl Jam. Una scaletta molto pop, devo dire, mi è venuta così, che devo fare? Ma dopo poi cambia, un po'. Comunque, Pearl Jam, In My Tree, l'album è No Code del 1996, sì, no, in effetti c'è chi gli si sarà accapponata la pelle a sentirmi dire, definire pop i Pearl Jam, però ecco, insomma, come dire, sono diventati famosi, ecco. Comunque, entrare dentro un albero e rifugiarcisi come in un nido, scappando dal mondo, dalle pretese, dalla pubblicità, dall'invadenza, dall'insistenza, questo più o meno è quello di cui parla In My Tree, un brano che, se non ve lo ricordate, penso che alle prime note farete «Ah già, ecco qual era», e sì, fondamentalmente era uno sfogo che i Pearl Jam fanno prima del tempo, perché già allora si sentivano invasi nella loro intimità, figuriamoci adesso quando le nostre vite si svolgono dentro un minuscolo aggeggio elettronico chiamato smartphone, boh, voi, perché io sono ancora più old style e non so di cosa parliamo. E però sì, già allora erano ossessive e frenetiche le nostre vite e inseguite dalla pubblicità e da chi ti stava sempre col fiato sul collo, e sarebbe stato bello rifugiarsi all'interno di un bell'albero cavo e non sa ascoltare niente e nessuno. Un bel sogno di bambini che a me piace molto, devo dire. Trading stories with the leaves instead. E beh, in effetti di pop ci rimane ben poco in questa scaletta, perché subito ammazziamo tutto quello che di popolare e popular c'è con Nick Drake. Nick Drake, Fruit 3, l'album Five Leaves Left, quindi direi che siamo proprio esattamente nel bel mezzo del tema degli alberi. Album del 1969 che abbiamo già ascoltato parecchie volte in effetti dentro Slick Chick, ma è che ci dobbiamo fare, a me piace, quindi ve lo rifilo. D'altronde, se Nick Drake faceva sempre canzoni che c'entrano con le mie scalette, io che ci posso fare se non dargli voce? In Free 3 probabilmente c'è una vita intera e la triste, tristissima, al limite del lacrimevolissima storia di Nick Drake. Più o meno quello che dice è: la fama non è altro che un albero da frutto molto malato, non potrà mai fiorire finché il fusto rimarrà sottoterra, e così gli uomini famosi non troveranno mai una strada finché il tempo non volerà lontano dal giorno della loro morte. Albero da frutto, nessuno ti conosce tranne la pioggia e l'aria, non preoccuparti, loro resteranno e guarderanno fisso quando tu te ne sarai andato. Albero da frutto, apri gli occhi a un altro anno, tutti dovranno sapere che tu sei stato qui quando sarai andato. Fame is but a fruit tree, so very unsound. It can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while the air, remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting night, you find the darkest sky, give the brightest light. Safe in your place, deep in the earth. That's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while. Much updated ring from a much outdated style. Fame is but a fruit tree, so very unsound. It can never flourish till its stalk is in the ground. Some men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Thank you. tree, fruit tree. No one knows you but the rain in the air. Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone. Fruit tree, fruit tree, open your eyes to another year. They'll all know that you were here when you're gone. Ecco, mi piace quando arriva l'autunno mettere Nick Drake. Proprio io so che c'è almeno un vombato di fuoco alle polveri che sarà d'accordo con me, lo so di per certo, ma secondo me anche qualcun altro. Allora, proseguiamo, non manca tantissimo, ma qualche brano ancora da spararvi ce l'ho. Le Andrew Sisters, Don't Sit Under the Apple Tree, brano reso famoso dall'orchestra di Glenn Miller e anche poi in realtà dalle Andrew Sisters durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1942 precisamente. Non sederti sotto il melo con nessun altro tranne me, che già di per sé è un concetto abbastanza opinabile, se non spregevole da parecchi punti di vista, ma d'altra parte le Andrew Sisters cantavano per i fedelissimi militari che andavano in guerra lasciando a casa le altrettanto inconsolabili fidanzate, eh? No? Che bel mondo, meno male che è finito. Ma pensa te che cioè, questi vanno a giro a fare casino e te che rimani a casa manco puoi fare che ti pare, eh? Cioè guarda, proprio manie di controllo in continuazione. E passiamo alle cose serie, ovvero Nina Simone, che beh sì, insieme a Nick Drake, d'altronde quando arriva la malinconia autunnale ci deve stare. Nina Simone, July 3, l'album è I Put a Spell on You del 1969, album bellissimo che vi invito a riscoprire. E sostanzialmente quello che dice Nina Simone è: il vero amore viene seminato in autunno, si radica nel profondo sotto la neve dell'inverno, germoglia in primavera e poi vederlo fiorito in luglio. E comunque d'altra parte Nina Simone secondo me poteva dire un po' quello che gli pareva e voglio vedere poi che, come facevate a replicare, insomma, ecco. Love seed in the autumn ground. True love seed in the autumn ground. When will it be found? True love deep in the winter white snow. True love deep in the winter white snow. How long will it take to grow? You know true love buds in the April air, the April air. Was there a bud so fair? True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms home. For the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms home. Simone insolitamente presa dai buoni sentimenti e dalla voglia di vivere, non ricapita spesso, quindi insomma godiamocela così. Proseguiamo, ci mancano due pezzi alla fine di questa scaletta di quest'oggi, martedì 25 settembre, e allora... diciamo che sono abbastanza opposti questi pezzi. Il primo è dei Melvins. I Melvins con Harry Lauder's Walking Stick 3, l'album è Honky del 1997. E i Melvins, se non li conoscete, insomma, sono una storta band che esce per la Ipecac, etichetta di Mike Patton e altri, insomma etichetta che da cui Slick Chick prende a piene mani Del resto, insomma, il cantante, cantante e chitarrista, anche Buzz Osborne, fa parte storicamente anche dei Fantomas, insomma, sempre quella banda lì. Osborne, fra le altre cose, ha rilasciato un'intervista riguardo le faccende di copyright, file sharing, cosiddetto diritto d'autore, che sostanzialmente dice una cosa del tipo: è rubare? Certo, e chi se ne fotte? Il mondo doveva cambiare, andiamo avanti. Quanto gli voglio bene, io gli voglio benissimissimissimo. E il pezzo, questo Harry Lothers Walking Stick Tree, con tutto questo lunghissimo nome, in realtà sta parlando del nocciolo contorto, cioè si chiama proprio così, il nocciolo contorto, ritorto, contorto, come lo vogliate chiamare, non so se avete presente, è quel nocciolo che ha tutti... è tutto contorto, attorcigliato, cioè tutti quegli alberi, quei rami tutti un po' aggrovigliati su se stessi. E in inglese si chiama così, Harry Lothers Walking Stick Tree. Che si deve fare? Non sempre si ha il dono della sintesi, d'altra parte. E quindi, insomma, di questo parlano i Melvins. Roba allegrotta vi propongo, siete contenti, è vero che è ricominciata Slick Chick, ne sentivate la mancanza. Allora, siamo alla fine di questa puntata, forse alcuni staranno tirando un sospiro di sollievo. Allora, sì, vi saluto quindi, insomma, e vi do appuntamento mercoledì prossimo, ma no, scusate, oddio, l'abitudine, non è vero, no, mercoledì, a martedì, il martedì alle 8 di sera, mi raccomando. E beh, nel frattempo però vi lascio nelle sapienti mani di Cilla Black, Cilla Black è cantante beat soul, dai, diciamo così, inglese, nota ai più per alcune hit molto divertenti, ma in realtà ha fatto della roba anche trashissima, tra cui Trees and Loneliness, beh, non sarebbe se no è rientrata in questa allegra scaletta. Trees and Loneliness, ovvero alberi e solitudine, l'album è Time for Cilla del 1968, brano che devo dire inizia in maniera malissimo secondo me, cioè veramente un po' dozzinale, e poi però diventa una roba strappalacrime tremenda, insomma, e comunque si salva un bel po'. Quindi vi lascio nelle sue sapienti mani e vi do ancora appuntamento a martedì prossimo, e rimanete in ascolto del Wombat con le sue molteplici repliche e contenuti sparsi. Ciao ciao! Trees are bare, not like they used to be. Things have changed, I wonder why. Here I am, so is it possible? All that lived had time to die. Friends and lovers, where are you and where do I go now? People's faces, old and new, they've changed, and I don't know how. I was sad, that's why I went away. In my pain, I was a fool. Follows me too.